Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Mia cara Silvia, ho già le chiavi in mano per chiudere il Groove Master Studio, poi lo apriremo a metà settembre per la nuova edizione del Soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi in contatto e buona domenica da Gegè Telesforo, buona domenica anche a Silvia Barba e Francesco Tromba. Buonasera a te, ma io sono un po' triste. Mi dispiace, perché bambina? Perché queste chiavi che chiudi il Groove Master Studio, io come farò tutta l'estate senza il Soundcheck? Non c'è problema, ci saranno le repliche. Ah, il sabato e la domenica alle 19:15 partiranno le repliche con le puntate più interessanti di questa stagione. Poi, come dicevo, a metà settembre torneremo in onda. Va bene, ok, mi hai carichi e freschi. Tromba, come stai? Bene, quindi ci saremo senza esserci. È vero, ci saremo senza esserci, è vero, è una specie di divinità, no? Sì, un'entità. Un'entità diventiamo. Bene, ma non perdiamo tempo, ragazzi. Andiamo alla musica, perché ci sono delle novità. Anzi, io sono contento che Radio 24, a grande richiesta, ci ha proposto un altro weekend, perché c'è tanta musica nuova da presentare. E oggi vorrei iniziare questo appuntamento, che di solito dedichiamo al jazz, con il sound tipico di New Orleans, quello che viene fuori dalle mani di questo eccellente pianista che ha condizionato proprio le vicende della musica di New Orleans negli ultimi anni. Purtroppo scomparso da quanto tempo è scomparso? 2015. Ecco, quindi, 10 novembre. Ecco, il 10 novembre. E vi sto parlando di Alain Toussaint, eccellente pianista, proprio l'erede di Professor Longueuil. Quindi vi sto parlando proprio della tradizione della musica di New Orleans, perché a New Orleans certamente è stato inventato il jazz, la patria del jazz, ma anche un crogiolo, un melting pot culturale con un suo stile e un suo sound particolare, ovvero tutte le influenze di quella zona geografica. C'era la musica dei pionieri che si è fusa con quella degli schiavi africani, è stato creato lo zydeco, il cajun, c'è il reggae, c'è il sound latinoamericano, quello che arriva da Cuba, insomma tutto questo portentoso ed esasperato crogiolo di musica ha dato vita al sound tipico di New Orleans. E Alain Toussaint è uno dei protagonisti di questo stile, che viene celebrato oggi con una pubblicazione recente intitolata American Tunes, e il brano è Dolores Boyfriend. Lui, Alain Toussaint, solo piano. Diamo il via e ci spostiamo a New Orleans, anche perché da New Orleans arriva anche Branford Marsalis, e poi lo presenterai tu, visto che è tuo amico, Silvia. Sì, certamente, volentieri. Bene. Il suono magico del pianoforte di Alain Toussaint, che celebriamo qui al Soundcheck in apertura di questa puntata, brano intitolato Dolores Boyfriend. Pensate che gran parte delle composizioni dei solo piano di Alain Toussaint sono stati trascritti, e li ritroverete anche su YouTube, per cui potrete ascoltare il suono originale e leggere la partitura. Partiture abbastanza complesse, anche se poi l'approccio stilistico di Alain Toussaint era molto istintivo. Bene, poi tra l'altro secondo me ha fatto una delle morti migliori che si possano fare. Sì, cioè? Perché è morto in tour. Ecco, e io che... Alla fine ha suonato la musica che voleva suonare. Hai visto, Tromba, quando io ti dico che quello del musicista è uno dei lavori più pericolosi del mondo? Può capitare di morire anche in tour. Ma come è morto? Gli è preso un coccolone? Un attacco di cuore, sì. Era in Spagna, a Madrid, e non ha fatto in tempo ad arrivare. È pericoloso questo lavoro, perché vai in giro, mangi un sacco di roba, poi c'è chi beve, insomma, poi vabbè. Poi si gioca con le emozioni, sono ragazzi sensibili. Vedi perché mi piace questa ragazza? Perché dice delle cose sensate. Allora, un'altra famiglia importantissima per la storia della musica di New Orleans è quella Marsalis. Che famiglia, ragazzi! Che famiglia! Dire? C'è il papà, Branford Marsalis, Delfaio Marsalis e Branford Marsalis, che musicista! Sono stati anche un po'... allite i due fratelli, soprattutto quando Branford Marsalis lavorava con Sting, perché Winton è un integralista con la sua tromba, no? Oggi direttore del Lincoln Center, Branford invece è molto più aperto anche musicalmente, ma è legato alla tradizione. E che cosa ha fatto? Ha realizzato questo album intitolato Upward Spiral con la partecipazione di Kurt Elling, un album di ballad e qualche brano originale, proprio con il sound più classico possibile. E potremmo ascoltarli in Italia, perché arriveranno il 10 di luglio a Pescara, al Pescara Jazz Festival. Il 13 invece saranno a Milano e il 14 a Umbria Jazz. Kurt Elling, special guest di Branford Marsalis in Doxy, una composizione di Sonny Rollins al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di questa domenica, l'ultima per questa stagione. Sì, andremo in vacanza, più o meno, chi si permette la vacanza, chi invece continuerà a lavorare e a fare concerti, sto parlando di me. Torneremo però in onda a partire da metà settembre, dal secondo weekend di settembre, ma non temete, perché già dal prossimo weekend andranno in onda le repliche con il The Best del soundcheck, il suono della musica di Radio 24. Allora, tanti album in uscita. Recentemente è stato pubblicato anche questo Voltage, credo si debba pronunciare in francese o in inglese, come lo pronunciate voi questo? Io francese per deformazione. Voltage, sì. Allora diresti te. Bebo Ferra in trio, bravissimo Bebo Ferra con la sua chitarra, quanto mi piace, e infatti lo saluto e gli faccio i complimenti, vedi, in diretta, mia cara Silvia. Con lui Gianluca Dienno all'organo Hammond, al pianoforte, al Rhodes Fender, e il bravissimo Nicola Angelucci alla batteria. Album recente, il brano era Juan e il 5, composizione originale di Bebo Ferra. A proposito di jazz italiano, vorrei farvi una domanda. Ecco, spesso durante le conferenze stampa anche il mio amico Renzo Arbore, in veste ufficiale di presidente della Fondazione Umbria Jazz, considera il jazz italiano secondo al mondo dopo quello americano, quello afroamericano. Voi che ne pensate? È così? Sì, è vero, ci sono tantissimi musicisti italiani bravissimi, però quello che manca secondo me nel jazz italiano, nelle produzioni italiane, è l'allegria. Quindi, parlando proprio della produzione discografica, manca un po' di allegria. Allegria non nel realizzare i dischi, ma proprio nella proposta musicale. Sì, proprio nella musica che andiamo poi ad ascoltare quando inseriamo il CD nel CD player. Si osa poco, sia da un punto di vista artistico che secondo me da un punto di vista proprio produttivo. Non ci sono più i produttori, se ci sono mai stati. Io sento invece che manca un po' di contemporaneo, nel senso che se il contemporaneo è quello che da sempre viene rappresentato dal suono tipico di New York, e quindi oggi c'è questa fusione di stili fra jazz, avanguardia, indie, hip hop, contemporary, R&B, questa ventata ancora da noi non è arrivata. Bisogna fare attenzione a non essere troppo autoreferenziali, tra l'altro, per cui osare di più significa spaziare, vedere, andare in giro, non chiudersi nel proprio mondo, che è quello un po' che è la mentalità degli americani. Perché gli americani poi hanno tutto questo successo, tra l'altro? Perché sono persone che si mettono in gioco, osano. Non solo, ma hanno inventato loro il lavoro in qualche modo, no? Perché il business discografico poi è un'invenzione tutta questo americana. È fondamentale. I promoter che anche durante i festival propongono degli artisti e ne supportano altri, perché magari il promoter può essere chiamato per un artista molto conosciuto, però propone lui un artista meno nello un stesso festival talento. Per farlo conoscere al grande pubblico. Ecco, qui ancora non ci siamo arrivati, però. Temo di no. Va bene, ci arriveremo però, perché abbiamo musicisti fantastici anche nella nuova generazione. E come no. Allora, andiamo avanti, c'è un altro, quindi parliamo di jazz italiano, restiamo con il riflettore puntato sul jazz italiano e su un batterista che ormai è un veterano molto versatile, perché per anni ha anche accompagnato in tournée la band di Mario Biondi, un musicista di jazz eccellente, si chiama Lorenzo Tucci, anche lui è un nostro amico, lo saluto. salutiamo, gli facciamo i complimenti per questo album intitolato Sparkle, e visto che tu parlavi proprio di produzione discografica, l'album viene prodotto da Giandomenico Ciaramella, che ormai negli ultimi anni ha prodotto personalmente tanti bei dischi di ottimi musicisti. Ho presentato anche l'album di Maxionata ultimamente con l'Organ Trio, anche quello prodotto da Giandomenico, e praticamente ci sta rimettendo le penne Giandomenico, perché nella vita fa anche l'avvocato, e lì proprio nel suo studio legale lo vogliono ammazzare perché sta spendendo tutti i soldi per produrre il jazz italiano. Quindi bisogna mi sperare che ci siano tante cause da qui a... Ma io gliel'ho detto mille volte, stai attento, non spendere tanti soldi quando produci dischi. I dischi non si vendono perché lo fai apposta. Allora, ma è un appassionato, ha detto, ma a me piace la musica, mi piace stare con i musicisti, stare nello studio, il disco lo voglio produrre personalmente, e allora gli ho fatto la proposta: quanto investi sul mio prossimo disco? Esatto, hai fatto bene. No, va bene, è bello produrre i dischi, certamente ci sono dei costi da sostenere. Lorenzo Tucci, il brano si intitola Keep Calm, con lui Luca Mannuzza al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso, è un altro veterano del jazz italiano, ormai lo devo dire un veterano alla mia età, Flavio Boltro alla tromba, meraviglioso. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E si parlava di jazz americano, jazz italiano, quello francese, quello svedese, chi supporta meglio il jazz locale. Certamente ci sono dei paesi che investono, proprio il governo spende un bel po' di soldi per portare in giro per il mondo i propri artisti, che sia jazz o musica classica. Da noi questo non mi sembra stia accadendo. Ecco, c'è l'organizzazione di Puglia Sound che fa qualcosa, ma insomma non mi sembra abbastanza. Ma parlando di produzioni discografiche, secondo me uno dei dischi più belli della stagione è proprio quello che vi ho fatto ascoltare, Brad Mehldau in trio con i suoi compagni di avventura ormai da sempre, potrei dire Larry Granadier al contrabbasso, Jeff Ballard alla batteria, un album splendido, si intitola Blues and Ballads, e qui viene fuori insomma non solo il grande pianista ma un uomo di grandissima sensibilità. Sì, è un trio fantastico da vedere assolutamente dal vivo, perché sono impressionanti la coesione che hanno, sembra di ascoltare un musicista solo che suona tre strumenti contemporaneamente. Io li ho ascoltati una volta live a Roma e per, ti giuro, due giorni non ho parlato. È stata un'esperienza davvero, davvero emozionante, non so come spiegare, sono stata colpita emotivamente dalla musicalità, dal talento, ma soprattutto dalle forti emozioni che ha provocato quel concerto in me. Sì, hai proprio ragione Silvia, e tra l'altro anche il buon gusto di Brad Mehldau di spaziare anche su generi diversi. Per esempio questo brano Little Person non è la composizione di un compositore classico del songbook americano, ma sì, stiamo parlando di John Bryan, un eccellente compositore contemporaneo che da sempre lavora sulle colonne sonore, e molto spesso si è ritrovato in studio proprio con Brad Mehldau nelle produzioni, quelle più intriganti secondo me, quelle a cavallo fra il jazz e la musica contemporanea, e quindi sono dei vecchi collaboratori. In qualche modo Brad Mehldau ricorda questa amicizia proponendo in questo album Little Person, brano splendido. E siamo ai saluti, miei cari amici, perché chiudiamo questa stagione del Soundcheck nel vero senso della parola. Ecco, le chiavi sono qui, le puoi sentire, sono, siamo pronti. Sì, mi dovete dare il tempo di stappare la bottiglia di champagne. Andiamo. Che ho preso per voi, brindiamo, chiudiamo le luci, chiudiamo tutto e ci dedichiamo poi alla birra. No, alla birra, ma guarda che sei proprio, ma che personaggio. Un personaggio. Io volevo ringraziarti invece ufficialmente, abbracciarti davvero per la grande esperienza che io ho fatto qui quest'anno, questi mesi davvero belli. Grazie Silvia, sei stata emozionata io. Che carina, sei stata bravissima Silvia, grazie anche a te Francesco. Grazie a voi tutti. Noi continueremo a fare qualcosa durante l'estate, e comunque Silvia, dimmi, ti darò i compiti a casa, avrai una missione. lezione, perché so che la porterei a casa e ci servirà per la prossima stagione. Va bene, sono pronta. Grazie a tutti voi, grazie a Radio 24. I saluti li avevo già fatti il weekend scorso, no? Ma insomma, grazie a tutti gli amici di Radio 24 e grazie a tutti voi per aver sostenuto questo programma. Ci ritroveremo a metà settembre, il secondo weekend di settembre saremo di nuovo qui. Niente, fate una buona estate, vi voglio bene. Divertitevi. Ciao a tutti.